Vi è mai capitato di trovarvi in casa una persona senza che ve lo aspettaste? Non è una bella sensazione. È vero che era un'amica e non un ladro, che le avevate lasciato le chiavi di casa per ogni eventualità. Però che vi stia preparando la cena dopo avervi fatto la spesa ha qualcosa di terrificante. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Le 16:06 minuti, Radio 24, sono Matteo Caccia, sono qui. Per diversi motivi, in questo periodo sono estremamente affascinato dal lato nascosto delle persone, da quello che le persone non mostrano, che in alcuni casi può essere davvero terrificante, in altri casi può essere semplicemente una piccola cosa che loro si tengono tutta per sé. Sapete, come quelli che hanno una passione molto profonda, che però non è... Non è il calcetto il giovedì sera, e non è andare a sciare, non è nemmeno la vacanza in barca a vela. È proprio una piccola passione segreta che è quasi imbarazzante da raccontare, no? Allora, toglietevi questo imbarazzo. 800 24 0024, oppure 349 238 6666. Sto parlando di gente che so io che fa l'ingegnere, che però poi la sera si toglie la cravatta e si mette a suonare il liuto, ad esempio. Oppure commercianti. Conoscevo un ragazzo una volta che aveva un negozio di una cartoleria, però, forse perché era umbro, aveva la passione per la cucina etrusca, e lui passava 3 sere a settimana a cucinare queste zuppe fatte col pane Bonini, tu lo saprai, la roba etrusca di voi umbri, più o meno, con il cavolo nero, il farro, e lui chiaramente avrebbe voluto fare il cuoco di cibo etrusco, però non c'era proprio così tanto mercato. 800 24 0024, oppure 349 238 6666. Ma anche, e quelli sono i miei preferiti, gli impiegati che scrivono le poesie. Impiegati per modo di dire, cioè persone che fanno altri mestieri, che fanno 8 ore al giorno in un ufficio oppure a uno sportello, e poi hanno voglia di mettersi lì a raccontare delle piccole storie. Ecco, queste cose che sono spesso molto intime, che non si ha voglia di raccontarle, oggi avrei voglia di sentirle. 800 24 0024, 349 238 6666, per un semplice motivo: che quelle cose nascoste raccontano sempre una storia. Proprio per questa mia passione ultimamente del lato nascosto, riguardo il lato nascosto delle persone, mi sono rivisto un film che avevo visto tempo fa, e forse ne avevo già parlato anche l'anno scorso, però è il film che insieme ad altri che ho visto recentemente racconta di più proprio la parte nascosta di quella persona che è il protagonista di questo film. Era un'impresa fino allora mai tentata dall'uomo. Primo, non sapevamo se la barca avrebbe resistito. E secondo, non sapevamo se l'uomo avrebbe resistito. Si fecero avanti navigatori esperti. E poi c'era l'uomo misterioso. Don Crowhurst. Questo film si chiama Deep Water. Di solitudine. Gli psichiatri dicevano che un essere umano sarebbe impazzito in quell'impresa. È una specie di documentario, in realtà. Si è iniziato come un gioco, verso l'appuntamento con Capo Horn. È un documentario che trovate, credo, in DVD, non credo venga trasmesso in televisione. E la storia è abbastanza semplice, per quanto stravolgente. Nel 1968, una rivista americana, anzi un quotidiano inglese, non americano, che è il Sunday Times, annuncia una prima regata a vela in solitario in giro per il mondo senza scalo. Si chiama Golden Globe e possono partecipare tutti. Questa è la cosa particolare rispetto alle altre regate, per cui bisognava dimostrare di essere quantomeno dei navigatori esperti. No, qui ci possono partecipare tutti quelli che hanno voglia e tutti quelli che hanno una barca per fare il giro del mondo in solitario senza scalo, una roba che ti tiene probabilmente 9 mesi, se non di più, in mezzo al mare da solo. E oltre ai più grandi navigatori di quell'epoca, cioè di fine anni 60, primi anni 70, si fa avanti questo tizio. Questo tizio si chiama Donald Crowhurst, ha 36 anni. Ha una moglie, ha 4 figli e ha un'attività che, se non ricordo male, è tipo che fabbrica degli apparecchi di precisione per il mare, ma è una roba che non è poi così tanto lontana da una ferramenta, è una roba del genere. Lui di fatto ha un sacco di debiti e quindi punta a vincere il premio per il navigatore più veloce, che sono 5.000 sterline, e all'epoca non saprei fare il paragone di quanto possano essere adesso, comunque sono tanti soldi. Niente, lui si costruisce insieme a delle persone che gli danno una mano economicamente, facendo un sacco di debiti, un trimarano, che è una barca con 3 scafi. Va a finire male questa storia, va a finire male perché lui fondamentalmente non era un navigatore, perché quella barca non poteva reggere i venti e i mari, soprattutto i mari antartici, in quel periodo dell'anno che era fine ottobre. La storia incredibile però è che quest'uomo, oltre al diario che tiene per navigare, che è il diario che poi la giuria avrebbe dovuto valutare per vedere se lui aveva veramente effettuato la navigazione, visto che non c'erano sistemi satellitari, insomma, era un casino, si basavano solo sul suo diario e in base a calcoli molto complicati verificavano che lui, se lui avesse fatto o meno il giro del mondo. Insomma, lui ha cominciato a tenere due diari. A un certo punto lui teneva il diario che era il diario della navigazione e che in realtà era fasullo, perché lui non stava navigando intorno al mondo ma si era fermato più o meno a metà strada, o neanche a un terzo della via, e ha cominciato a tenere un altro diario che era il diario vero, che era quello in cui lui raccontava come stava, cosa stava facendo e come passava quelle giornate in mezzo al nulla, in mezzo al mare. È un film meraviglioso perché è un pseudo documentario, ci sono parti ricostruite, parti invece prese con i nastri dell'epoca, perché la BBC gli aveva dato dei registratori vocali con cui lui poteva registrare la sua voce e quindi tenere dei diari, in realtà probabilmente erano tre quindi diari. E la cosa incredibile è proprio il mondo che quest'uomo si crea, che è un mondo tutto suo e che lo porta poi, diciamo, nell'oblio. Il film si chiama Deep Water, ci sono dei DVD o se no conoscete i modi per vedere un film che non si può vedere al cinema o in televisione. Invece il numero è 80024 0024 oppure 349 238 6666. Allora, dire la verità, dirla sempre, non significa diventare maleducato. Anzi, in realtà credo che nel mio nuovo mondo, in questo mondo svuotato dalle bugie, sta prendendo piede un Matteo nuovo, più gentile, più rispettoso. Cioè, non che prima fosse un cretino, vorrei che fosse chiaro. Anzi, io in realtà credo di aver ereditato dai miei genitori dei modi garbati e anche la capacità di stare ad ascoltare senza mai sembrare troppo annoiato. Non lo so, però forse per il fatto che la menzogna è una delle maniere più facili di non dire cose sgradevoli, ho avuto paura che dire sempre la verità mi avrebbe portato a diventare antipatico. E io non sono antipatico. Cioè, va bene, ok, probabilmente starò pure antipatico e questa cosa dovrebbero dirla agli altri, però, come dire, io non credo di essere antipatico di base. Poi, chi lo sa. Comunque, per evitare questo pericolo, nelle ultime settimane mi sono impegnato ad essere ancora più gentile di prima. Senza contravvenire ovviamente al mio nuovo mandato, cioè dire sempre la verità. Ed essere gentile a volte può essere frainteso. Cioè, mi spiego, se fai passare qualcuno davanti a te nella fila, perché lui ha fretta e tu in fondo non ce l'hai, quello sulle prime ti ringrazia. Poi però ti guarda con un po' di sospetto. Cioè, come se pensasse che in cambio stai per chiedergli qualcosa. Oppure che hai qualche brutta intenzione, tipo che a stargli dietro fai prima soffiargli il portafoglio oppure che gli vuoi toccare il sedere. Se poi sei stato premuroso con chi ti ospita, per compensare ulteriormente il fastidio che gli hai arrecato con la tua presenza, ci possono essere incidenti diplomatici. Se poi, e siamo arrivati al mio caso, l'amica che ti ha ospitato è appena uscita da una storia tremenda con un tipo, che non è ancora innamorata, ma manifesta anche il desiderio di farlo a pezzetti se solo potesse, ecco allora che la gentilezza può davvero diventare un boomerang. Ve l'ho raccontato, no? Mi sono preso casa e ho lasciato casa di Simona da qualche giorno. Però io e lei chiaramente continuiamo a sentirci perché è un'amica. L'altro giorno, ad esempio, è voluta venire a tutti i costi da me per curarmi dall'influenza. Però c'erano già delle cose strane che succedevano quando stavo da lei. Voglio dire, se una torna a casa e sorride perché ci sei, invece di guardarti in cagnesco perché le stai occupando il posto sul divano e lei non può mettersi lì tranquilla a piangere guardando Grey's Anatomy, che tra l'altro, inciso veloce, sarà anche fatto benissimo, però a me più che piangere fa piuttosto impressione, tutte ste robe di sala operatoria, bisturi, divaricatori, aspiratori, robe che se io potessi mi eviterei di vedere. Comunque, dicevo, se sorride invece di farti il muso, va pure bene. Gli ultimi giorni però, gli ultimi giorni che ho passato a casa sua, lei arrivava ogni sera con buste della spesa piene di ogni ben di Dio. Cose che non si comprava di solito, ma che sai, siccome ci sei tu a me fa piacere. Mi telefonava al pomeriggio dal lavoro per sapere se preferivo uscire, per andare al cinema, oppure se cucinavamo insieme a casa. Mi scriveva delle mail per scegliere insieme a me di che colore comprare i prossimi cuscini, se valeva la pena o no accettare quell'offerta per la televisione a pagamento. Insomma, avrete capito, anche per questo ho deciso di chiudere con l'ospitalità. Perché non ne sono sicuro, però ho come la sensazione di essere fidanzato. Senza però essere fidanzato. Anzi no, forse lo devo dire meglio. Ho come l'impressione che lei creda di essere fidanzata senza però essere fidanzata. E siccome io ho visto un sacco di film e me ne ricordo almeno un paio in cui una storia del genere non andava a finire per niente bene, mi sono un po' preoccupato. E per questo motivo, l'altro giorno, l'ultimo giorno che sono stato da lei, ho calcato un po' la mano sul suo ex, come per ricordarle che lei stava soffrendo perché lui l'aveva mollata, che è lui il suo soggetto del desiderio. E le ho chiesto anche un sacco di particolari su di lui, sulla loro storia, però mi sa che non è stata la strategia migliore, perché ogni volta che Simona finiva di parlare, si fermava e, credo solo per il fatto di averla ascoltata, mi rivolgeva uno di quegli sguardi che non ammettono rifiuti. Poi però è successa una cosa. L'altra sera io sono tornato a casa mia e me la sono trovata in cucina con 5 buste della spesa che mi preparava la cena. E lì ho capito che qualcosa non andava. È capitato di trovarvi in casa una persona senza che ve lo aspettaste? Ecco, no, non è una bella sensazione. Che dico, è vero che è un'amica e non un ladro, che le avevate lasciato le chiavi di casa per ogni eventualità, però che vi stia preparando la cena dopo avervi fatto la spesa ha qualcosa di terrificante. Ho chiesto a Simona cosa stesse facendo e mi ha detto che da quando vivevo da solo mi aveva visto un po' dimagrito e aveva paura mi trascurassi. E ancora stavo cercando di capire se era uno scherzo oppure no, quando lei mi ha detto che aveva un pensierino per me e ha tirato fuori un maglioncino. Era azzurro, ma soprattutto era di cashmere. Poi ha appoggiato sul tavolo un pacchetto di cioccolatini e mi ha fatto la sua rivelazione. Mi ha detto che lei lo sa che io sono innamorato di lei. Io stavo per aprire bocca, però lei mi ha messo un dito sulle labbra, esattamente come in una scena madre, e io ho pensato che forse era meglio stare zitto anche stavolta. Mi ha detto di sedermi, si è seduta di fianco a me, prendendomi le mani che erano gelate tra le sue invece che erano morbide e calde. Per inciso, Simona è un donnone. È una delle poche donne che conosca che può guardarmi dall'alto in basso e che non ti viene da aiutarla quando sposta un mobile. Anzi, semmai chiami lei se vuoi una mano per un trasloco. Ciò nonostante sa essere molto femminile. Con le mie mani nelle sue mani, Simona mi ha ripetuto che lei lo sa che io sono innamorato di lei, ma che lei non può ancora dirmi niente perché è appena uscita da una storia importante. E che devo darle tempo per capire se stessa. Che devo essere forte. Che devo resistere. Poi mi ha detto che il maglioncino era per me, per non avere freddo in quest'autunno già freddo. E che l'azzurro mi dona. Dopo aver detto tutto ciò, è arrossita, ha preso le chiavi di casa, la borsetta, ed è uscita, dicendomi che la pasta era quasi pronta e il pollo era nel forno. Io sono rimasto immobile, senza sapere cosa fare, finché ho fatto una di quelle cose che avrei dovuto fare molto tempo prima. Ho preso il telefono e ho chiamato Aldo, il suo ex. Pronto? Ciao Aldo, sono Matteo, Caccia, non so se sei presente. Ah, ok, ciao Matteo, come stai? Beh, bene, grazie, tu tutto a posto? Bene, sì, tutto a posto. Dimmi. Senti, io avrei bisogno di parlare con te di Simona. Ah. Ti spiego. A proposito di? Ti spiego, io sono stato ospite un po' da lei, non so se lo sapevi. E quindi, stai, stando da lei, lei mi ha raccontato un po' di cose, di te, tipo della vostra... Cosa esattamente, perché ma, non so... Ma tipo, beh, che stavate insieme, poi che tu l'hai tradita, insomma, che voleva continuare la storia, che lei ti ha detto di no, insomma... Ti ha detto dei maglioni di cashmere, te l'ha detto, sì. Sì, mi ha detto che gli ha dato fuoco. Che erano i miei preferiti, te l'ha detto, sì, che gli ha dato fuoco, te l'ha detto, sì. Sì, certo, me l'ha raccontato, come no? Solo però, questa è la questione, che io oggi sono tornato a casa... E lei ti stava preparando la cena, giusto? Sì, e aveva pure fatto la spesa, però. E non ti ha regalato un maglione di cashmere, no? Sì. So, se vuoi ti spiego altro, se no... Che succede, Jean-Marc? Dimmi cosa c'è. Ho avuto un incidente. Un incidente? Ma dove? Dimmi. Uno mi è venuto addosso, ho sbattuto contro il guardrail. Ma sono stato sbalzato prima dell'impatto. La macchina è capotata 3 volte. Ma la macchina è lì fuori? Era la macchina di servizio. Sono stato portato in elicottero all'ospedale di Losanna. Papà è ancora malato? No, sta riposando. Era un uomo a compartimenti stagni, come lo definiva Florence, la moglie. Separava rigidamente la sfera privata da quella professionale. Non invitava mai a casa i suoi colleghi dell'OMS e non tollerava che lo disturbassero a casa per questioni di lavoro. Né ammetteva che parenti o amici lo importunassero in ufficio. Il numero del suo ufficio, del resto, non l'aveva dato a nessuno, nemmeno a sua moglie, che per mettersi in contatto con lui usava il servizio operateur. Bastava lasciare un messaggio in una delle caselle vocali. Cerca persone che portava sempre con sé, lo avvertiva emettendo un segnale acustico e nel giro di poco tempo lui richiamava. Né lei né nessun altro trovava la cosa strana, perché Jean-Claude era un po' orso. Era un aspetto del suo carattere su cui Florence amava scherzare, dicendo: un giorno o l'altro verrò a sapere che mio marito è una spia dei paesi dell'est. Il marito non era una spia dei paesi dell'est, era semplicemente una persona che da 18 anni raccontava cose che non faceva. Questa è una storia che è realmente accaduta, probabilmente la conoscete. È accaduta per 18 anni a partire dalla fine degli anni 70, fine primi anni 90, ed è venuta fuori esattamente il 9 gennaio del 1993, quando il protagonista di questa storia, che si chiama Jean-Claude Roman, ha ucciso praticamente tutta la sua famiglia, perché stavano scoprendo la sua menzogna e stavano scoprendo quel mondo lì in cui viveva. Cioè, lui raccontava di essere un medico e di lavorare per l'OMS appunto in Francia e di dover andare spesso a Ginevra alla sede dell'OMS per lavoro. In realtà lui per 18 anni usciva di casa e andava nei parcheggi autostradali oppure si nascondeva nei boschi. Viveva con i soldi fondamentalmente della moglie, di un appartamento che aveva venduto e poi di debiti che faceva prendendo soldi da parenti e amici, dicendo che investiva i loro soldi per fare altri soldi, ovviamente in fondi che non esistevano. Questa storia è stata poi scritta in un libro che è del pezzo che vi ho raccontato, che si chiama L'avversario. L'autore è un autore francese, si chiama Emmanuel Carrère, ed è diventato anche un film, che è il pezzo che avete sentito quei pochi secondi in testa. Questa è una storia chiaramente terribile, è una storia però che comunque ha un fascino cupo che ti prende allo stomaco, perché c'è qualcosa di quell'uomo che ricorda il nostro modo di fuggire dalla realtà. Non è questo modo di fuggire dalla realtà ovviamente a cui mi riferisco oggi, è un modo per fuggire alla vostra giacca, la vostra cravatta quando arrivate a casa la sera. È un modo per cercare di dare fondo e sfogo a quella passione molto intima e molto privata che ognuno di noi ha e che spesso non racconta perché magari un po' si imbarazza. 800240024 oppure 349-238-6666. Ad esempio, mi scrive... non mi dice il nome. Io faccio il camionista, poi sono un DJ e ultimamente mi sono messo in testa di diventare un trader. Ma scusami, ma com'è che DJ poi vuoi fare? Il trader sarà per i soldi, immagino. Il DJ posso immaginare perché. Tante persone però conoscono solo il camionista. È esattamente quello che dicevamo prima. Emilio mi scrive: pensavo a cosa faccio di strano quando rientro dal lavoro. Ma lo sport non è strano. Allora ho pensato al mio alter ego su Second Life. Il mio alter ego su Second Life è una bella ragazza che per mantenersi fa un po' la escort ed è pure bisex. Emilio. 800240024 oppure 349-238-6666. Un altro messaggio che però ha a che fare... qui non ne puoi sbagliare una, perché gli etruschi sono toscani, ma lo sappiamo che gli etruschi sono toscani. E appunto, e poi c'ha ragione Bonini, non sono solo toscani gli etruschi, sono anche un po' di Foligno. No, di Foligno magari no, però Umbria, Lazio, quella zona lì. Esatto, studia... forse anch'io dovrei studiare la storia. Matteo, la Toscana è la patria degli etruschi, mi scrivono, perché sono orgogliosamente toscani come le zuppe e il cavolo nero. Va bene, ok, la prendo, la metto in archivio. 800240024 oppure 349-238-6666. Quell'altra parte di voi che tenete nascosta, se magari ci sono... Io vorrei fare appello a loro, perché li vedo solo nei film. C'è gente che di notte, alla luce di un lumino, costruisce galeoni spagnoli con i fiammiferi oppure con gli stuzzicadenti. Ecco, però è quella parte nascosta di voi che un po' vi imbarazza, e probabilmente lo capisco anche. È proprio quella parte nascosta di voi che vorrei sapere oggi. 800240024 349-238-6666. Adesso la grande domanda che ci attanaglia tutti i giorni a quest'ora: ma cosa starà accadendo alla borsa? Pochi secondi e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. La foto è un gran casino. Finalmente. Sembra. Non sembra vera. Sembra una scenografia. Nello spazio di, direi, all'incirca 7 metri quadri, riescono ad esserci un letto matrimoniale, un comodino, un computer portatile, un climatizzatore d'aria, un tavolo con due sedie, il tavolo è apparecchiato, una libreria e una poltrona. Record del mondo. È la casa di una persona che vive in poco spazio. Il letto è sfatto, però diciamo rassettato in maniera ordinata. Sulla poltrona ci è appoggiata, credo, dei pantaloni o un maglione. Il computer là in fondo è aperto e credo sia connesso perché c'ha un cavo. E poi c'è il climatizzatore, quindi probabilmente è estate, perché altrimenti sarebbe quantomeno nascosto. Perché è un climatizzatore portatile, non è di quelli a muro, altrimenti non si potrebbe fare questo ragionamento. Il tavolo invece. Il tavolo ha due sedie, però è apparecchiato per uno. E c'è da mangiare, c'è un piatto, credo sia della carne probabilmente. Forchetta e coltello, una bottiglia di vino, un bicchiere, un tovagliolo e una amichetta. Proprio non un panino, una amichetta per l'esattezza. Però insieme a tutto ciò c'è un delirio di strumenti da lavoro, tipo pinze, chiavi inglesi, cacciaviti, una bolla per mettere dritte le cose, e poi c'è una pistola sparasilicone. È qualcuno che vive in questa casa, ci vive in poco spazio e la sta rimettendo a posto. E la sensazione è proprio di una casa che sta prendendo forma. Cristiana Chilli, 34 anni, 25 metri quadri che voglio far diventare un gioiello. Da 2 anni ci lavoro con passione e intanto ceno con i fondi delle provviste. Io sono qui. E voi dove siete? Si chiama questa iniziativa, è orribile, fa subito rubrica uguale, orribile uguale. Non ci abbiamo neanche pensato come chiamarla sta roba, perché iniziativa fa subito roba tipo oratorio, no? È una bella iniziativa per domani all'oratorio di Romentino. Comunque si chiama E voi dove siete? Funziona così, che se voi avete voglia di mandarmi una foto del luogo in cui vi sentite di essere o nel luogo in cui dove siete, in cui veramente voi siete, la scattate e la caricate sul profilo Facebook, che è Matteo Caccia, io sono qui. Noi le stiamo raccogliendo tutte e ogni giorno vi racconto la piccola storia che c'è all'interno di ogni foto. E tutto questo, poi tutta questa grande iniziativa darà poi vita a una grande mostra o a una pubblicazione probabilmente, ma ancora questo ha da venire e ha da diventare, per cui aspetto altre foto. Matteo Caccia, io sono qui. In particolare, se andate a vedere quell'album, adesso credo siano 150 foto, ce ne sono almeno un paio di un ascoltatore storico di questo programma, ma storico soprattutto dell'altro, perché è stato anche finalista del concorso che avevamo indetto, un suo oggetto è stato venduto. È Emanuele Vicentini, che oggi ci è venuto a trovare ed è in regia. Vi saluta, che adesso non vorrei che questa diventasse un'abitudine, per cui poi ogni giorno ci abbiamo no, Emanuele, figurati, non è il tuo caso. Lui credo abbia scattato una foto in questo momento, giusto? E l'ha già caricata sul profilo Facebook, ovviamente, perché non si fa mancare niente. Quindi andate a vedere la foto, perché è l'Io sono qui di Emanuele, che è Io sono qui anche mio per oggi. Mi è arrivato però un messaggio ieri che mi ha colpito, perché era più che un Io sono qui, era un Io vorrei essere lì. Ve lo leggo. Io tutti i giorni sono su un furgone scassato, a percorrere in su e in giù la stessa strada, mentre finisco pacchetti di sigarette ascoltando tra un sorriso amaro e uno comprensivo le tue storie. Ma sarei potuto essere in Plaza Orwell a Barcellona, nel centro del barrio gotico. Sarei potuto essere in una redazione di un qualsiasi giornale a lavorare gratis per il miraggio di un patentino da pubblicista. Oppure potevo ritrovarmi ancora tra i banchi di scuola, a convincermi che una laurea specialistica poteva garantirmi un futuro diverso, un futuro che dicono migliore. Invece tutte le mattine mi vesto a strati, vado incontro al freddo del primo sole, poi al caldo di mezzogiorno, aspettando i cali di temperatura pretramonto. Prima di uscire di casa però mi spoglio di tutto quello che era possibile qualche anno fa, di quello che sognavo, di quello che sarei potuto essere, dei titoli di studio conseguiti, delle città dove mi sono sentito a casa, casa, troppo lontane, tanto che a volte mi sembra quasi di essere in una vacanza lavoro. Lui si chiama Julian, credo Julian perché credo con la, è scritto con la J, e mi ha colpito perché non ne avevamo mai parlato, e questa è una bella idea di dove potrebbe essere e dove spero che magari prima o poi sarà, se ne ha voglia. 80024 0024 oppure 349 238 6666, perché oggi è proprio quella parte nascosta di ognuno di noi che, proprio perché è nascosta, noi accudiamo quasi come un bambino piccolo. Davide però giustamente scrive: io non voglio sfuggire alla mia giacca e alla cravatta, ci sto bene con tutto quello che l'ho pagata. E allora Davide, fai benissimo a tenertela su. Ciao, mi chiamo Eustafelio. Questo è finto. Dai. Però vado avanti lo stesso. Ti do comunque la gioia della lettura. Ciao, mi chiamo Eustafelio, ho una grande passione per il riciclaggio. Riciclo tutto. Ad esempio, nelle sere d'estate, girando in bici, vado a raccogliere lattine vecchie sui margini delle strade, di cui certo non vado orgoglioso ad andare a raccontare agli amici il sabato sera, non so se per timore o per vergogna. Io non so se questo messaggio è finto. Se però è vero, ti prego, chiama immediatamente 80024 0024. Io vendo impianti logistici durante il giorno e faccio il mago durante i fine settimana. Ma questo, niente, non riusciamo a chiamarlo. No, giustamente, fa il mago e quindi non ha voglia di farsi sentire. 80024 0. Ah, abbiamo provato a chiamarlo e stava andando al lavoro. Al lavoro il mago? Faceva, incontrava un cliente. Beh, i maghi hanno dei clienti? Per l'altra. 80024 0024, 349 238 6666. Andiamo invece a Brescia da Samuele. Pronto Samuele? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Mi racconti che cosa fai nella vita e che cosa fai nell'altra vita? Allora, io nella vita faccio l'ingegnere informatico, progetto software, anche abbastanza complesso. Ma di che tipo? Banche. Ah, per le banche. Sì, tutto, per controllare sostanzialmente che tutto quello che entra non finisca in tasche sbagliate. Ma quindi, scusami, tu lavori per una banca o sei un consulente? Lavoro per un'azienda, per l'azienda leader in Italia in questo ambito, un'azienda molto molto grossa. Ma tra l'altro, scusami, non sono un consulente. Non sei un consulente? Quindi ok, perfetto. Tra l'altro, scusami Samuele, ne approfitto che ci sei tu al telefono. Io qualche tempo fa avevo parlato di questo tizio francese che aveva fatto perdere un sacco di soldi alla Société Générale. E ieri mi pare è stato condannato a dover ripagare tutti, Jérôme Kerviel. Tu ne sai qualcosa? Ma sì, so quello che è passato sui media, ma non è che avesse in qualche maniera frodato. Ah, non ha a che fare con le frodi dei sistemi informatici. Non ha frodato il sistema informativo, gli erano stati dati degli affidavit, quindi un patrimonio da gestire, ah, e lui semplicemente... e un certo debito da poter aprire, e lui ne ha abusato. Ah, okay. Quindi non aveva a che fare con un hacker o quella roba lì? No, no, no. Ma tra l'altro è vero che sono le persone come te che poi diventano degli hacker? Direi che la definizione di hacker è molto ampia. Le persone come me sono già degli hacker, nel senso che okay, devono sapere quali sono tutte le sfaccettature. La mia specializzazione è proprio quella della sicurezza del software. Quindi Samuele, tu fai questo durante le 8 ore della giornata e poi invece cosa fai? E poi quando riesco la sera costruisco archi, modelli antichi, medievali e anche preistorici. Ma li costruisci a dimensioni? A partire dal legno grezzo o da delle tavole con delle strutture particolari. Ma scusami Samuele, ma cosa ci fai con degli archi? Li usi oppure certo, solo per bellezza? Sì, no, dopo li uso, e la parte migliore, la soddisfazione, io dico che mi si apre il cuore quando apro un arco costruito da me, nel senso che ci sono dei tracciati appunto per archi tradizionali, ce n'è uno molto bello qui a Brescia sono praticamente dei percorsi all'aperto in cui sono posizionati dei bersagli, esattamente come tu andresti a fare una scampagnata, un sentiero. Ogni tanto lungo il sentiero ci sono Samuele, perdonami, ti giuro, lo devo dire perché avrei potuto far finta di niente. Io non avevo capito niente, credevo che gli archi fossero gli archi a tutto tondo, non gli archi archi per tirare le frecce. Ok, ho capito. Guarda, mi sembra più sensato costruire gli archi per le frecce che non degli archi a tutto tondo a sesto acuto. Samuele, grazie mille. Consumano parecchio spazio. Lo immagino. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Io ti giuro che credevo che creasse gli archi. Dicevo, ma dove li metti gli archi? Andiamo a Milano da Salvatore. Pronto, Salvatore? Pronto? Ciao, come stai? Ciao, sto benissimo, grazie. Tu? Io me la cavo, raccontami cosa fai tu. Niente, io sono un operaio. Sì? Durante il giorno lavoro, tutti i santi giorni, però poi la sera vado a suonare con il mio gruppo, a ma provare. Salvatore, ma questa cosa ti deprime così tanto? No, ti sento un po' giù, Salvatore. No. Anzi, mi fa sentire meglio. Dai, dimmi che pezzi canti la sera. Ma io canto solo De André, ho un tributo De André. Ma ah, non è... ok. Mi canti un pezzettino? Sì. Aspetta. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Salvatore, dimmi dove canti la prossima sera, così qualcuno può venire a sentirti. No, per ora non ah, non ci sono serate. Io tenevo a dirti una cosa, però. Dimmi. Io non ho telefonato per farmi pubblicità, assolutamente. Figurati. L'ho fatto per spiegarti che io ho iniziato... Ho voluto cantare perché sì. In seguito a un ictus praticamente ero rimasto senza parola e mi ero ripromesso che se ne venivo fuori come ne sono venuto fuori e non avrei più esitato a fare questa cosa che poi ho iniziato a fare all'età di 47 anni. Quanti anni hai adesso, Salvatore? 52 anni. Guarda, questa credo che sia la più grande vittoria che potevi raccontarmi. No, difatti. Buona giornata, Salvatore. Purtroppo devo chiudere, ma grazie davvero. Non c'è problema. Io ti ringrazio della grazie a te, grazie a te. Ciao, buona giornata. Pare che esista. Esiste ed è vero. Eustafeglio da Avellino, pronto? Sì, sono io. Buongiorno, Eustafeglio. Ma, ciao. Innanzitutto fammi fare una carezza a Salvatore, quello che ha chiamato prima. L'operaio, ma fallo pure una carezza perfetto. Senti, mentre io sono un'ape operaia, sì, che praticamente vado in giro, cerco di non farmi vedere, sicuramente qualcuno mi vedrà, però mi piace andare a rovistare nei cassonetti perché ci sono delle persone che buttano delle cose, oppure andare proprio dove ci sono i depositi della lettizia urbana, le discariche. Eustafeglio, scusami, ma poi cosa te ne fai delle lattine, delle bottiglie di plastica? Ah, io faccio delle, mi piace, ho preso spunto da un certo Antonello Leone, che è un artista campano. Come no, Antonello Leone? È famoso. Guarda, io non lo conosco, però... A modo mio. A modo tuo. Delle piccole opere da dare. Ah, ok. C'hai un sito internet, Eustafeglio? No, non ce l'ho. Fatelo sto sito. Ciao, grazie mille Eustafeglio, buona giornata. Ciao, ciao anche a te. Ringrazio tutti, abbiamo finito, siamo in grande ritardo. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?